capitato più volte in diverse interviste di affermare con convinzione che io amo molto la radio, l'amo più della televisione, per un motivo ben preciso, perché in radio, a differenza della televisione, soprattutto oggi, si può conciliare qualità e ascolti, si può fare cose belle con della gente che ti segue, direi, insomma, se mi permettete una punta di vanità, che il Falco e il Gabbiano è proprio un esempio tangibile di questa teoria. Però la verità è che io amo la radio anche per un altro motivo, un po' generazionale. Credo che molti ascoltatori che hanno la mia età condivideranno questo pensiero. La radio ha accompagnato le nostre vite per anni, con dei programmi che erano dei veri e propri cult, programmi che hanno creato un mondo particolare, fatto di personaggi, di modi di dire, e un umorismo che era diventato parte delle nostre vite. E tra questi programmi, uno che ha veramente segnato un'epoca, che ha creato personaggi straordinari, che ha creato dei tormentoni che erano sulle bocche di tutti, è stato sicuramente Alto Gradimento, andato in onda dal 1970 al 1976, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, più o meno all'ora di pranzo. Io andavo a scuola con la radiolina a transistor nella cartella, di modo che appena uscito potevo attaccarmi la radio all'orecchio e ascoltare Alto Gradimento, affezionandomi come tutti a dei personaggi strampalati, intanto ai conduttori, ai brani musicali, perché erano anni nei quali un brano trasmesso due volte da Alto Gradimento andava primo in classifica, era un vero e proprio imprimatur. E poi c'era questo canovaccio strano, non preconfezionato, senza un apparente filo logico, programma che sembrava improvvisato e che aveva peraltro un successo strepitoso. Signorina! Londra. Londra, uè. Vuole Londra sulla 4? No. Si è allargata la fabbrica. Allora la là da tu. Sulla 8? Non la vogliamo noi Londra. Noi... va bene sulla 2? Guardi signorina, che lei ha chiamato, noi siamo a Roma. Dove? Roma. Pronto? Signorina, o parla con noi o noi chiudiamo, eh? No, signor compagno, resti sì. Pure lì. Ecco, noi non possiamo aspettare però, vogliamo affrontarla con una certa pazienza, ma non possiamo aspettare che lei parli con Londra, con il ragionier Barbaresco, con il commendator Baruffaldi, con il commendator... C'è o non c'è il commendator Ghisletti? Oh. Se vuole, signor Arbore, le posso passare alcuni eurasiani che sono in attesa dell'altro ieri? Alcuni? Alcuni eurasiani che sono in attesa dell'altro ieri. Eurasiani. Beh, li avete riconosciuti, Arbore e Boncompagni, i conduttori storici di Alto Gradimento, con degli autori che hanno fatto epoca, il geniale Giorgio Bracardi, che aveva inventato molte macchiette, Patroclo, l'urlo Patroclo, e poi l'uccello preistorico Scarpantibus, e poi l'ex federale fascista Catenacci. Insomma, Bracardi era veramente un pazzo, forse un giorno parleremo di noi. E poi c'erano altri personaggi, per esempio, non so, la signorina Paola, uno dei tanti personaggi inventati da una mente fervida, creativa, fuori dagli schemi. Peraltro di una persona che non era assolutamente un autore radiofonico, non era neanche un attore, era un architetto, bravissimo peraltro, un uomo che aveva creato oggetti straordinari di design, con una incredibile verve comica, umoristica, una delle anime non solo di Alto Gradimento, ma di quella meravigliosa stagione radiofonica e televisiva degli anni 70 e 80. E sto parlando di Mario Marenco, lui è il nostro protagonista di oggi e gli dedichiamo questa puntata per ricordare il suo straordinario contributo alla nascita di una comicità moderna, surreale, innovativa, certamente rivoluzionaria. Mario Marenco nasce a Foggia 9 settembre del 33, foggiano, come quello che diventerà il suo futuro amico, il mentore, il suo collega Renzo Arbore. Nel 57 si laurea a Napoli in architettura e lui ama l'architettura, diventa un protagonista in prima persona di quel mondo, è talmente ferrato in quell'argomento che vince borse di ricerca all'estero, Chicago, Stoccolma. Nel 1960 ha già aperto il suo atelier di architettura e design a Roma e lì dà vita a progetti straordinari di grande prestigio, d'avanguardia. Per esempio, nel 60 realizza il lampadario a sospensione in alluminio cinzia distribuito da Artemide, è un richiamo agli origami ma anche alla sperimentazione del periodo, quella optical come si diceva allora, portata nella moda da Pierre Cardin, da Paco Rabanne. Nel 70 crea il divano Marenco disegnato per la ditta Arflex secondo dei modelli particolari, concetti modulari, cuscini e braccioli mobili, era molto innovativo, venne copiato. Nell'84 arriva la famosa poltroncina movie per la Frau, aveva degli agganci che richiamavano le sedute cinematografiche, insomma abbiamo capito che il livello di Mario Marenco come architetto era altissimo. Lui collabora con i maggiori marchi del design, dell'architettura di interni della sua epoca, brillantissimo professionista, avviato verso una carriera soddisfacente di grande successo. Marenco ha dentro di sé una incredibile verve comica naturale. Mentre studiava a Napoli aveva conosciuto, fatto amicizia con Renzo Arbore ed è proprio con lui che lui inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel 70 Buoncompagni, Arbore, Bracardi e Marenco esordiscono con questa avventura che cambierà la storia della radio italiana, sarà veramente uno spartiacque e verrà imitata da tutti per decenni. Abbiamo avuto dei giochi radiofonici che palesemente si ispiravano proprio a loro, a alto gradimento. Pronto? Senti caro, che cosa stavi facendo? Dormicchiavi? E da quanto tempo non lo sentivamo, generale? Pezzo di pazzo. Caro Vicchiolo! Chi guardi che qui Vicchiolo come non c'è. Come sta quella fedentona? Chi è? Ma non si possono dire queste parole! Ha ragione Vinella. Tua moglie Vicchiolo è una bella... Sua moglie Vinella? Quel bel pezzo di... Io non ho moglie, non c'è... Quel bel mobile, Vicchiolo, caro Vicchiolo! Che mobile? Che cosa ti racconta, generale, di bello? Oh, carissimo, senti, carissimo, stamattina... Stamattina? Che stanno facendo da lei in caserma? Che succede? Generale, che succede? Sentiamo Mettila di battere? A macchina, Vicchiolo. No, un rumore da lei, tremendo. Questo era il generale Rambaldo Buttiglione, uno dei primi, uno dei più amati personaggi inventati da Mario Marenco lì a alto gradimento. Nasce come colonnello, poi cresce di grado, diventa generale, ha talmente successo che diventa anche un personaggio cinematografico, protagonista di una serie scritta da Castellano e Pipolo con la regia di Mino Guerrini, interpretato da un attore francese, Jacques Dufilhot. Per creare questo personaggio Marenco peraltro aveva preso spunto dalla realtà, dalla sua vita privata. Il padre era ufficiale della Guardia di Finanza e aveva come superiore un generale che si chiamava Giovanni Buttiglione, tra l'altro zio del parlamentare Rocco Buttiglione. E come capita spesso, come si usa negli ambienti militari, Marenco aveva sentito dal padre delle battute sul generale e così insomma questa era la genesi di una delle più divertenti tra le sue tantissime macchiette. Alto gradimento, programma, l'abbiamo detto, rivoluzionario, assolutamente diverso in tutto e per tutto. Ogni puntata era caratterizzata da una totale assenza di filo logico. Venivano mandati in onda brani musicali che, come ho detto prima, diventavano immediatamente dei successi indiscussi e all'interno di questi brani c'erano battute varie e interventi, oggi diremmo demenziali, insomma interventi strampalati di personaggi assurdi, gag improvvisate su un canovaccio di base, personaggi inventati da Bracardi e da Marenco che interagivano con i due conduttori che diventavano meravigliose spalle alle loro battute comiche. E poi c'erano gli effetti sonori, non so, una porta che si apriva e si chiudeva per simulare l'intrusione improvvisa di un personaggio in studio, oppure lo squillo di un telefono che dava il via a una conversazione, frasi registrate di personaggi dello spettacolo, della politica, quelli di allora, Amintore Fanfani, De Sica, Sofia Loren, Mike Buongiorno, frasi che diventavano dei veri e propri tormentoni. Lo spirito del programma era quello, si viveva sull'invenzione costante di personaggi che si alternavano, diventavano dei tormentoni, poi magari invece cambiavano e poi tornavano e si candidavano a essere punti fissi di ogni puntata. Marenco da solo di questi personaggi ne inventò oltre 20, uno dei più amati era un anziano professore di italiano in pensione, ritiratosi a casa di una lontana parente, uno che rimpiangeva gli antiquati metodi di insegnamento e tutti i modelli di scuola del passato che erano stati soppiantati dal 68. Era un tipico esponente di una classe docente frustrata che era delusa dalla perdita di prestigio, di potere, insomma è uno dei personaggi più riusciti di alto gradimento, è stato riproposto a lungo in trasmissione e il personaggio era il mitico professor Aristogitone. Gitone. Eccolo là, il telefono. Chi sarà questo? Pronti? Avvocato. Pronto? Pronto! Professor Aristogitone. Il professor Aristogitone. Lo sentiamo. Ormai la riconosciamo subito. 40 anni di insegnamento. Non c'è bisogno che lo dica. 40 anni di disillusioni. Vabbè. 40 anni di delusioni. In mezzo a queste quattro mura scolastiche. Ma adesso non è nelle mura scolastiche, adesso è a casa della sua lontana parente che sì, lo sta assistendo e gli sta facendo passare una bella vacanza. Quale vacanza? In mezzo ai treni, in mezzo ai treni, no? Quale vacanza mi vai contando? Quale vacanza mi vai contando? Qui passano treni, treni dopo domenica. Ah, ci siamo messi in gingri. Come in gingri? Io ero esaurito, non avevo dormito da una settimana in mezzo a quello sballottolaio. Che sta su quell'appartamento, vabbè, chiamiamolo così, tutto stinto, tutto brutto, pavimento balla, insomma domenica mattina mi sono alzato all'alba, cioè verso che ora? Amico qua ero, io alle 5 ero già in piedi. Amico caro, 40 anni di insegnamento, 40 anni di duro lavoro fra queste quattro mura scolastiche. Questa era la frase tormentone del professor Aristogitone, che naturalmente viveva in terribili ristrettezze economiche a causa della sua pensione da insegnante che era troppo bassa, ma anche per via della crisi, dell'inflazione galoppante degli anni 70. Lì ci fu una pesante svalutazione, ma anche di questo si rideva a alto gradimento. E Aristogitone non aveva neanche la possibilità di vestirsi in maniera adeguata, doveva accontentarsi dei capi d'abbigliamento dei suoi avi. Ho preso il cappotto, ho preso la sciarpa, ho preso questo il tapir, caldo. Mi sono messo le mie scarpe sdrucite, mi sono messo le mie calze sforacchiate. Mamma mia, professore. Mi sono messo niant'altro. Come nient'altro? La non biancheria. Tenevo nient'altro. Come? Sotto non avevi il vestito? Io non tengo niente. Io d'inverno e d'estate sempre la stessa maniera vesto, professore Aristogitone, dopo 40 anni di insegnamento. Ma possibile che non abbia un paio di pantaloni, professore? Non ci crediamo, via, su. Io i pantaloni non li tengo, certe volte li risparmio perché sennò diventano lisci lisci e lucidi. Non capisco. Amico caro, un professore Aristogitone non può andare in giro con i pantaloni lucidi. Scusi, con tutto rispetto, ma dico un paio di mutande, dico ce l'avrà. Ma è le mutande di mio zio della guerra mondiale. Quelle là, magari. La prima o la seconda? Sì, ma quelle sono tutte sbrindellate. Sono macerate. Ma la prima o la seconda guerra mondiale? Perché dipende. La prima. Mamma mia, austriache. Le mutande del professore Aristogitone. Scusi tanto. Sono lacrime amare. Hanno visto le mutande del professore Aristogitone. E lui compare da subito nella stravagante galleria dei personaggi di alto gradimento, è una delle macchiette di maggior successo di Marenco, lo accompagnerà per tutta la sua carriera radiofonica per molti anni. C'è un motivo profondo alla base del grande consenso di questo personaggio, al di là delle sue frasi ricorrenti, della sua comicità surreale. E forse il motivo è che Marenco riesce a raccontare un'epoca, a parlare di contestazione giovanile, entra nella realtà delle scuole di allora, è uno spaccato sociologico e intelligente. Ognuno di noi aveva almeno un professore che poteva ricordare in qualche modo nell'atteggiamento, nei modi, Aristogitone. Tutto questo ci fa capire quanto Marengo fosse profondo, colto, intelligente, riusciva con quella punta di cinismo indispensabile nel versante comico, riusciva a farci ridere, cosa forse addirittura più difficile che far piangere. A riprova del fatto che Marenco è un autore a tutto tondo, che ha una creatività sottile e acuta, bisogna ricordare anche le sue sperimentazioni linguistiche nella sua galleria di personaggi. Lui inventa un poeta grazie al quale propone al pubblico componimenti surreali fantastici, e il poeta è Marius Marenco, il poeta che cammina un po' sbilenco. Chi si svoglia di mattina con un inguercibile sgatoscio, però essere bastote come asseggio di lavurio. Essere bastote? Però essere bastote come asseggio di lavurio. Ci traduca questo, perché no, io non ho capito neppure il resto, ma comunque. Però può essere bastote come asseggio di lavurio. Può essere bastante come assaggio di lavoro. E satisfa il cardio, rientrar in elevamotore. Capito, ascensore in eleva motore. Grazie. Nella mochettura conforto, ve mascio agonar nella pigrozza. Pigrozza sarebbe il letto. Agonar nella pigrozia, sì. Infine al tramuntio e tripudiar la cena le cine. Disleva giorno come la tempazza di mai. Disleva giorno come la tempazza di mai. Molto bello. È leopardiana. Puntini sospensivi e finisce così. Molto bella, questa è una nuova vena. Una nuova vena che speriamo non prenda piede. Questo farà abbassare il nostro indice di gradimento di perlomeno 20 più basso punti. Di così. Arriveremo a 2, saremo veramente il programma migliore della RAI. E già, come dice Arbore, il programma migliore della RAI, e in effetti era così, alto gradimento, è stato quello, è stato un successo strepitoso che arrivava mentre la radio come mezzo cominciava a essere in una fase calante, sostituita insomma dalla televisione, con ascolti in picchiata, insomma, servivano cose nuove per richiamare un pubblico giovane poco abituato a ascoltarla. Alto gradimento, per questo motivo si può definire un evento rivoluzionario nella storia della radiofonia italiana. Nasce un nuovo modo di interpretare l'idea stessa di intrattenimento. Il clima è spontaneo, confidenziale e divertente. Paradossalmente, alto gradimento è qualcosa che dà l'abbrivio ai sistemi comunicativi delle radio libere che arriveranno di lì a poco. Il disgioco informale, quello spiritoso, poi ripeto, gli imitatori hanno fatto anche molti danni, però la base, l'humus, parte da alto gradimento, e oggi lo si definirebbe un contenitore, e Mario Marenco era l'elemento chiave per quella congiunzione di astrale, di pianeti che si allinearono in maniera clamorosa. E ne parlavamo all'inizio della puntata: qualità e ascolti, successo di critica e successo di pubblico. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è Mario Marenco, architetto, designer, uomo geniale, diventato famoso negli anni 70 e 80 per la sua comicità d'avanguardia, partecipando a programmi cult radiofonici e televisivi, poi alto gradimento con Renzo Arbore, con Buon Compagni con Giorgio Baraccardi, e poi Il Buono e il Cattivo con Cocchi e Renato e Enzo Iannacci, e poi Indietro Tutta ancora con la banda di Arbore. Marenco, che inventa personaggi mitici, il colonnello Buttiglione, la Sgarambona, l'astronauta spagnolo Raimundo Navarro perso nello spazio, il professor Aristogitone, e poi il poeta Marius Marenco, e soprattutto televisivamente il bambino Riccardino. Insomma, Marenco crea un umorismo surreale finissimo, con una nota di malinconia, e ha fatto ridere e anche però riflettere intere generazioni, ha influenzato enormemente la comicità nata dopo di lui, e nel nostro racconto siamo arrivati agli inizi degli anni 70. Marenco, che nel frattempo peraltro continua la sua professione di architetto di successo, è uno dei protagonisti, oltre che uno degli autori di Alto Gradimento, la trasmissione di punta del secondo programma radio della RAI, e non solo, è sicuramente uno dei maggiori successi di tutti i tempi quella trasmissione nella radiofonia italiana in generale. Precorre assolutamente i tempi, segna il percorso, lo dicevamo prima, di tante radio libere che arriveranno. Un'altra grande invenzione di Marenco è Raimundo Navarro, presunto astronauta spagnolo che viene abbandonato in orbita nello spazio da 8 anni. Lui cerca via radio qualcuno che lo faccia rientrare sulla Terra. Non c'è, non c'è. Ah, ecco, aquí ecco. El comandante Raimundo Navarro. Repito, si no me entiendes. ¿Cómo va? No te entiendo. Estos cabrones. Non sente, non sente. Allora no te entiendo. Abbiamo chiesto, le abbiamo chiesto come sta tutto qua, se poi non ci sente. E sto seduto, hombre. Oh. No, hombre, come sta di sto salute? Sto seduto in esta capsula. Dai. Estos cabrones, buffones. Umbriagones. Quelli a Madrid hanno combinato tutto. Estos se embriaguen todo el tiempo, hombre. Estos cordudos della base spaziale di Madrid. E non sono adatti in Spagna. A me mismo, comandante Raimundo Navarro e del Paloma Secondo. Già. Per sbaglio. Tremenda sta tutto storia. Un errore, una serie di errori. 8 años. Hombre. Abbiamo capito. 8 años. Una Esta es la más grande vacada que se recuerda. È già sparito. Questo va a Madrid. Vai, viene. E tenete presente che Raimundo Navarro arriva quando in Spagna c'è ancora il regime di Francisco Franco ed è impensabile, assurdo un impegno aerospaziale spagnolo. La cosa è ancora più surreale e divertente proprio per questo. Non c'era ancora la cooperazione internazionale per la quale magari un astronauta italiano o belga va nello spazio. E nell'immaginario collettivo gli astronauti erano solamente americani o russi, e quindi Marenco anche lì scardina questa inconfutabile certezza. E arriviamo al 72. Marenco fa il suo esordio televisivo e la TV non può non chiamarlo dopo 2 anni di successo strabiliante in radio, e allora diventa ospite del programma Il Buono e il Cattivo di Cocchi Renato e Iannacci, anche loro giovani, e soprattutto Cocchi Renato ai primi anni delle loro carriere, anche loro fautori di una comicità nuova che stava cambiando l'approccio comico appunto del paese. Mario Marenco non può, non vuole portare in video i suoi personaggi radiofonici perché quelli devono restare senza volto, possono vivere solo nell'immaginazione del pubblico, e allora si presenta in veste di poeta. Il signore che voi vedete vicino a me non è molto noto per il suo aspetto fisico, per la sua faccia, ma la sua voce invece è notissima. È lui che ha dato vita alla Sgarrambona, al colonnello Buttiglione, al Vinicio, poeta. Al poeta e a tanti, al professor Aristo Gintoni, mi suggerisce Iannacci, giustamente. È vero? Sei proprio tu, Mario Marenco, grafico. Tu sei la nostra azienda. Cioè, noi non siamo i proprietari dell'azienda. Noi siamo impiegati. Noi siamo condannati. Noi siamo tuoi o nostra azienda. Tu sei buona se noi siamo buoni. Ma se noi non siamo buoni, tu ci cacci via perché tu sei tremenda o nostra azienda. E allora, soli e tristi, sogneremo il consiglio d'amministrazione, il consigliere delegato, il presidente, il direttore e i colleghi d'ufficio e l'ufficio vendita. Ma se noi saremo buoni non sogneremo niente. Chi è buono non ha bisogno di sognare, perché chi è buono ha dentro di sé, chi è buono ha sopra di sé, chi è buono ha dietro di sé la sua buona azienda. E nel 1976 praticamente tutto il gruppo di alto gradimento trasloca da Radio 2 a Rai 2, sbarca in televisione, la nuova trasmissione televisiva che diventerà anche questa un programma mitico, si chiama L'altra domenica. Nasce con l'intento di rendere più dinamica la programmazione sportiva nel pomeriggio domenicale di Rai 2, e la Rai insomma ha sempre avuto il problema in quegli anni che non poteva trasmettere le partite, doveva in qualche modo parlare di calcio, ma aveva bisogno di un contorno. Il giornalista sportivo Maurizio Barenson da solo, pur essendo un grandissimo giornalista, non poteva reggere un contenitore di 4 ore. Poi però succede che la parte di spettacolo piace talmente tanto che piano piano prende più spazio rispetto alla parte sportiva, anche perché Arbore, che è la prima esperienza in televisione, è micidiale, porta personaggi esordienti provenienti da realtà televisive locali, per esempio lancia Andy Luotto, e soprattutto dalla Toscana un nuovo comico che è Roberto Benigni. Marenco inventa una parodia del giornalista della Rai Vittorio Refice, famosissimo commentatore politico che trasmetteva direttamente da Montecitorio. Il suo personaggio è Mister Ramengo. E noi adesso cediamo la linea invece al telegiornale, dove ci aspetta Mister Ramengo per la sua consueta L'opinione. Amici ascoltatori, buongiorno. È mio triste rincrescimento dovervi riferire una circostanza alquanto spiacevole. Il nostro amato governo, al quale tutti gli italiani, ripeto tutti gli italiani, rettifico tutti gli italiani, sono tanto attaccati così visceralmente, così svisceratamente, così inesorabilmente, è purtroppo caduto, dopo ha avuto un momento di defaillance. Tale crisi pare sia stata provocata da un attacco di l'onorevole Andreotti, stanco di essere seduto su quella sedia di presidente del Consiglio dei Ministri, si è accorto che tale permanenza in posizione seduta lì aveva causato un attacco di M-O-R-R-O-I-D-I. Non si può dire in televisione. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. E l'altra domenica ha un grandissimo successo, va avanti per 3 anni fino al 79, lancia altri personaggi come Lanni Chiari con le sorelle Bandiera, Isabella Rossellini inviata da New York. Poi nell'80 tutto il cast della trasmissione è protagonista di un film, Il Papocchio, soggetto, sceneggiatura e regia di Renzo Arbore con Luciano De Crescenzo. È un film ambientato tutto in Vaticano, dove peraltro con Arbore, con Benigni, con Luotto, con Marenco, con la Rossellini, cioè con tutto il cast diciamo dell'altra domenica, arrivano anche personaggi diversi: Mariangela Melato, Diego Battantuono, però anche Ruggero Orlando, perfino Martin Scorsese. Ascoltate una scena divertentissima in cui si scherza sulla frase religiosa "il Signore sia con voi". Grazie. Il Signore è con voi? Il Signore è con voi? Ah, Marenco, sì, il Signore sta con noi. Marenco, è per cortesia, fatti sempre... Il Signore sia con voi, signori. Ma il Signore è con noi, il Signore è con noi. Venga, venga. Grazie. Dove mi porta? Ti presento il cardinale Richelieu. Mi chiamo Renzo. E come ha detto il cardinale? Richelieu. Ah, Richelieu. Parente? Parente. Mm. Parente di chi? I quattro moschettieri. I quattro moschettieri. Ah, parente di quattro moschettieri. Ringraziando il Signore, siete qui. Vorrei presentarli i miei collaboratori. C'è l'architetto Marenco, che è scenografo, fatto delle celebri scenografie, la mia segretaria milanese. Oro, e che il Signore sia con voi. Non si preoccupi, Marenco, fammi una cortesia. Fammi una cortesia. Stati vicino a me, perché lui si secca che tu sia con me. Loro notano tutto. Che il Signore sia con voi. Marenco, mette pure il Papa. Mettiti più vicino, non vedi che... E dopo un altro paio di trasmissioni interessanti, Odeon nel 76 fino al 78 e Sotto le stelle con Magalli nella stagione 81-82, per Marenco, per Mario Marenco, arriva un altro grandissimo colpo d'ala. È un vero e proprio colpo di genio che gli darà un successo ancora maggiore, perché nel 1987 Arbore vara un nuovo programma che diventerà anche questo un cult della televisione. Lo conduce con Nino Frassica, segue un altro grande successo che aveva avuto Arbore pochi anni prima, cioè Quelli della notte. Questa volta il programma si chiama Indietro tutta. Indietro tutta! Vai Riccardino! E qua ci sono le ragazze Coccodè vestite da galline, c'è uno sponsor immaginario, il mitico Cacao Meravigliao, c'è Michele Foresta che diventerà poi il Mago Forest, c'è una giovanissima Maria Grazia Cucinotta, insomma uno straordinario calderone di gag, di giochi a quiz assolutamente strampalati, con, figuratevi, Frassica che era ed è il re delle cose strampalate, sketch esilaranti, quasi tutti frutto di improvvisazione che poi diventa canovaccio. E ha Indietro tutta, Marenco supera se stesso perché propone un personaggio veramente unico, è un bambino, il mitico Riccardino, uno scolaretto tonto ma neanche troppo, che in diretta TV sdogana molte parole e parla di argomenti tabù che all'epoca non potevano essere trattati in televisione. È un personaggio creato già alcuni anni prima da Marenco, che l'aveva presentato per la prima volta durante la trasmissione Telepatria Internet nell'81. Io mi chiamo la Barbara Riccardo. Ah, un nome illustre. E da dove vieni, Riccardino? Io vengo da Mantecata. In provincia di? Umbria. No. Allora Torino. Come Torino? In provincia di? Riccardino. Toglici una curiosità, ma tu quanti anni c'hai? Io? 48. Sì. Vai avanti, Riccardino. Ah, va bene. Io mi secco di puzzare e scaricare le puzze a destra e a sinistra, in automobile, in tram, in autobus o anche fuori al balcone. La mia prima cosa è sempre la mia amata patria, che è l'Italia, o quello che resta. Viva, viva l'Italia, la patria di Mazzini, Garibaldi, Cavour e Bettega. Bettega! Sì. Firmato? Allievo quello che sono io, prima Amargo. Prima, è finito il tema? Sì. Oh, Riccardino, bravo Riccardino. Ringrazia. Riccardino, un successo strepitoso e dà a Marenco una notorietà straordinaria, perché adesso non lo sentono solo, lo vedono. Poi con la fine del programma, Indietro tutta, nell'88 non c'è più un seguito. Arbore non amava molto replicarsi, non insisteva troppo sui successi che faceva. E allora Marenco lavora ancora sporadicamente per il cinema, scrive diversi libri umoristici, l'ultimo è del 2018, il titolo Porcade Mancade. Sostanzialmente però la sua parabola si chiude così. Naturalmente lui continua a fare l'architetto con grande successo, i suoi personaggi rimangono sostanzialmente congelati, anche se poi in realtà hanno influenzato enormemente la comicità, l'umorismo degli anni successivi. Era malato da tempo Mario Marenco quando muore a Roma il 17 marzo 2019 a 85 anni, però i suoi personaggi restano e soprattutto rimangono sempre giovani, ben piantati nella memoria di chi ha avuto la fortuna di vivere quella splendida stagione della radio e della televisione, che lo ha visto protagonista intelligente, surreale, acuto, uomo sempre un passo avanti, ecco, un passo avanti nella comicità. È un percorso molto lungo ed è una distanza incolmabile tra i fuori classe e gli altri. Se volete mandare dei commenti, sapete dove trovarmi. Ciao. Il Falco e il Gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro.